Fratello Fratelli. Italia. Attento compagno, se scucci l'Italia che va chiamando. Radio. Maria. Tu sei. Anche perché sia. Mi sono entrato un attimino qua. Com'è? Voglio stai spingendo un po' di rosio sotto, setto però qua. Vabbè, l'alimentatore. È un po' più vicino. Ah, hai fatto qualcosa con l'antenna? Sì, questa è l'antenna quella nuova, normale. Non è 2 metri sempre dove era prima. Non è sollevata ancora? No, no. Ma puoi commutare le due antenne o no? Sì. Però con l'altra radio, col gas si è spento. Perché quanto è il segnale basso? No, su per i 9.30, no, stavo guardando per fare confronto, vabbè, ma sono una più bassa dell'altra, non puoi vederlo, eh. Adesso quanto è il segnale? Guarda a vedere quanto è il segnale adesso. È salito di più di 9.35 adesso. Quasi 9.40, no? Ehi, hai cosa combinato? Come la tua davanti, ma adesso sarò con la... l'hai sollevata l'antenna? Sì, sollevata, la solita antenna c'è tra la mano, è questa. 5 punti guadagna. Non ho detto che le antenne vanno sperimentate, vanno sperimentate. Ah, va la grande, solo questo rumore non mi piace, cerca di risolverlo. Il rumore non lo sto sentendo, lo vedo. Il ventilatore è sempre lì. Ma non serve qualche ventilatore di 7, un rumore così. È normale, dovrebbero gli alimentatori si devono sentire, l'importante è la modulazione, copra. No, la modulazione era grande, però sentivo questo ronzio sotto. Buongiorno. Sì, Gianfranco, già un giorno si sta sentendo. Ciao Gianfranco, vai qua. Ciao Gianfranco, guarda se lo senti anche adesso. Un pochettino di meno mi sembra. Io lo sento. Che cos'è Gianfranco? Ciao, buongiorno. Sì, che si sente il rumore, si sente. Rumore, cioè ragazzi, non è un rumore, è un avvento. Che cosa devo fare? Non è che non posso mettere in cuore l'alimentatore. Ma cosa stai usando adesso? Perché il segnale è aumentato di parecchio, mi dà quell'impressione. Sto usando la MasterTech, la J-Ball 7 ottavi d'onda, alta 8,50 m. Su chi andiamo? vedono tutti gli 8 metri. Beh, si vedono anche i 7 ottavi che avete messo a conto voi. Ciao Roberto, ben ascoltato. Ciao Gianfranco, dopo tanto tempo, e perché anche l'altra volta ho chiesto, ma Gianfranco che fine ha fatto? Non è che stavo entrando più di tanto la sera qualche volta, adesso poi c'è caldo, non ne avevo voglia, ho detto, ma Gianfranco non l'ho più sentito. Ok, riprenditela la tua Gappa gappa, va bene, comunque l'importante è che questo rumore che si sente, questo rumore, e questo vento non sia fastidioso, appunto. Il vento si devono sentire. Va bene, sì, Gianfranco, una 7 ottavi. L'ho vista perché avevo la terra a poco, ho fatto un ordine nuovo, benissimo, un pelo, ma il pollo è enorme, per la Master Tech, sono l'unico, penso in Sardegna, che la sta sperimentando, e va molto molto bene, molto più silenziosa la manta, ma la resa è spettacolare, spettacolare, ed è bassa, è bassa 4 metri, dovrei aggiungere altri 2 tubi, allora è una cosa incredibile. È d'alluminio o vetroresina? No, tutto alluminio, sono due antenne praticamente accoppiate, una da 8 metri e una da 3 metri. Ok, non c'è il pollo, ma vi vedrei come è fatta tutta la cera oscillabile, Barumon 1 già incorporato, un'antenna seria, un'antenna da 200 euro, vabbè, non è un giocattolo. Seria veramente, anche come costruita è favolosa. Sì, la conosco, è un'antenna abbastanza semplice, io le costruivo per VHF, è l'ideale per la banda aerea, perché sono robuste, sono quelle messe dentro quelli cilindri, io non penso che sia un'antenna normale, tipo quelle che c'avevo vicino anche dalla finanza, sono su G-Pol, messe dentro un tubo molto largo, però in realtà poi sono due radiali dentro, cioè il radiale lungo e quello forte. Hanno poca larghezza di banda e quindi dovrebbero essere molto selettive anche. Riprendi Roberto? No, già l'ho vista, infatti sono un'antenna, l'abbiamo vista insieme con Flavio, no? Una bella antenna, lavora tipo una semidirettiva, per cui prende un peluzzino dietro, nel rapporto avanti e dietro, però nella direzione che il radio spinge parecchio, soprattutto a lunga distanza, rende più di una 5 ottavi con i radiali sotto, questa non è una radiale, è presente un tubo lungo di 8 metri e mezzo, con avanti un'antenna un po' più piccola, un direttore chiamiamolo, dai, anche se non si può neanche chiamare così, però c'è una bella resa, io me ne sono accorto, qua ho guadagnato quasi 5 punti, Claudio, ed è tantissimo. Ma non è come stai dicendo Gianfranco, non è un tubo ai visti, non perché come quello della Mantova uguale, anzi, meglio perché c'è le viti di bloccaggio più le fascette. L'altra ha delle barre che la uniscono, in acciaio inossidabile, sotto dove c'è l'HQPL c'è l'altra barra che unisce il montaggio della J-Ball con il Balum 1-1, favolosa la Gianfranco, non è allisti, non è una gaggata a montarla, c'ha delle misure ben precise, c'ha delle posizioni ben precise, non mi ha dato fatica a montarla, ma non è facile come montare una mantola. È abbastanza robusta, è tutta in alluminio, il montaggio è come la mantova, in più devi montare l'altra antenna che praticamente va agganciata al palo di 8 metri e poi c'è lo stilo fascettato con le viti, tutta una cera oscillabile che la mantengo. No, una bella antenna, sono contentissimo, ho una ricezione da favola, molto molto meglio della mantova, ma soprattutto molto più silenziosa, meno QRM, meno casino, capito? E tra l'altro è anche un'antenna cortocircuitata, quindi niente statica. Niente, quella si tara, c'ha un collarino praticamente, come tutte le J-Pol, c'è il collarino che unisce praticamente i due radiali e tramite quelli di norma si può tarare, a meno che le misure non siano già fatte in quel senso, ecco. In tal caso il collarino non c'è, perché è anche quello che fornisce l'alimentazione, tra l'altro si alza e si abbassa e da lì si fa l'accordo. Sì, sono rare perché a queste frequenze sono troppo impegnative come antenna. Comunque la sua resa sembra che che l'abbia, ecco. Allora, questa sarà 25, proprio 25 MHz, quindi mi fa anche, sono sceso anche a 24,8 le varche, le fa benissimo, sino a 30 continui, perché ho trasmesso in 10 metri proprio ieri, ho fatto delle prove, c'era un po' di propagazione, ottimi segnali, ottima ricezione, senza neanche accordare, no, non è attivo, niente da... Per accordarla direttamente da quello piccolo della J-Ball, l'ho mandata già col segno, io l'ho tirato su, fascia il tratto e detrata stazionaria 1 rapporto a 0, praticamente 0,08. In tutti i canali, e non come la Mantova, canali bassi, centrobanda, no, dal canale 1 al canale 80, sempre 0,8 di stazionaria. Praticamente neanche uno, e non si muove da lì. Sotto ci sono gli spagnoli che chiacchierano. Sì. Sì. Essendo fatta alluminio, ovviamente dovrebbe essere un po' pesantuccia. Quindi ci vuole un bel tubo. Riprendi Roberto. Il discorso c'è di buono con la tenda che non c'è bisogno neanche di sollevarla, loro raccomandano oltre un metro, mentre la Mantova deve andare oltre 3 metri, quello lì c'ha di buono, non ha i radiali per le cornacchie, ma in cima si possono mettere, però è una bella antenna, fatta bene, e diciamo adesso i risultati a parole potevano essere anche fantastici, però vedo che sta funzionando bene, da me ha guadagnato qualcosa come segnale Claudio, leggermente, non dico tanto perché siamo abbastanza vicini, però loro dichiarano, visto tutti i lobby di radiazione e cose, a lunga distanza funziona meglio di altre antenne. Questo qui si chiama Game Master, costa 160 euro, è un pezzo di tubo di plastica, questa è un'antenna seria, poi una 7 ottavi, non si scherza, se io ce l'ho, ho dei segnali, già avevo dei segnali molto molto alti, adesso tu figurati che di 9,35 sei 9,40 pieno, vabbè, Gianfranco era 9,20 ed è quasi 9,30, quindi cioè, si vede la differenza dai 5 ottavi ai 7 ottavi, non è che... L'ho montata come manuale, praticamente col lo stile della J-Ball verso diciamo la Ginara, come da manuale. Le altezze sì, ho visto, la posso montare anche a 1 metro da terra, non succede niente, però più la sollevi più guadagna. Infatti ho visto, quando era bassa i segnali erano molto più bassi, adesso che l'ho sollevata solo di 2 tubi, 4 metri. No, è fatta bene, guarda, come misure il piantone è uguale a quello della Mantova, gli altri stili sono, diciamo, forse leggermente di diametro, leggermente, devo misurare per sapere esattamente come grossetta, ma l'alluminio è favoloso, bello robusto, non pesa molto, Gianfa, pesa 8 kg, montata pesa 8 kg a tubo, montata fascettata perché c'è il cavallotto in acciaio inossidabile, la piastra, tutto in alluminio, bella. Adesso cerca di usarla però. No, non ho tempo di fare niente, io adesso era giusto così per sentire Roberto chiamare, sono entrato a salutare, ma non... Non è più come prima, c'ho altre cose a fare, altri progetti, altre cose, però sai, l'impianto dell'antenna lo devo fare nuovo, qua l'ho fatto nuovo, perché così è stabile, ho anche la Mantova, non è che... Con la Mantova sul Galaxy e sul 430 ci ho messo questa... Io già rientro il 29, oggi mi sono messo a riposo, domani devo andare a Urbia, così mi metto più tranquillo, visto che c'è fresco. Lo so, fresco c'è, zappa, ma c'è qualcosa proprio a me. Mi convince molto. E ti sei abbassato di segnale. Come voce, sembri un po' strappatino. Aspetta che ho abbassato la potenza, avevo troppa potenza. Ecco, adesso anche la radio è migliorata parecchio, adesso è perfetta. E ti volevo dire che l'altra settimana ho fatto delle prove telemetriche per l'UHF, che tra l'altro interessavano anche la strada dove sei tu. Ci sono passato davanti, chiaramente effettuate tramite gommino da dentro la macchina, perché quelle sono le caratteristiche. E la fazzona fino esattamente all'angolo di sopra, no, dove c'è quel rialzo, diciamo così, è praticamente perfetto come segnale. Quindi se magari a volte non sentivi, probabilmente era un problema del tuo portatile che era diciamo così, non sensibile, ecco. Dove ovviamente è sempre in digitale, quindi va bene, ecco, avendo una radio di quelle serie non dovresti avere assolutamente nessun problema neanche col gommino, perché tutta quella zona è coperta. Ah, ecco, ho capito. Va bene, non problema, aspetta un attimino che solleviamo di nuovo la potenza, così regoliamo la radio. Eccola qua. Va meglio così la radio, Giacomo? Sì, va bene, sento il ventilatore, ma per me va bene. Non so per Roberto, a te? Ma con quale radio stai uscendo qua? Non ho capito, cos'hai detto? Con che radio stai uscendo, col 43 o con l'eco? No, col 43, col 430 MC60, perché? No, infatti pensavo, no, ero convinto così, no, perché adesso ho visto che ho fatto degli aumenti, ecco, ho detto, pensavo ci avessi cambiato radio. No, avevo sollevato la potenza, perché quando sollevo la potenza aumenta anche la radio in questa 430, ho capito perché. Adesso l'ho regolata praticamente, capito? Se ce l'avevo a 3, adesso l'ho messa a 2. Segnale buono? Sì, 9.35. Ok, e la te già fa? 9.20 più o meno. La radio buona. Ho aumentato anch'io un pochino, perché sono sempre a bassa potenza perché c'è roba accesa, come al solito. E niente, dovrei essere aumentato un pochino, se dovrei vedere con l'antenna. Sì, già si vede. Ascolta, invece così con la potenza minima, 10 watt, quant'è il segnale? Voglio vedere, perché c'è tutto scritto, voglio vedere la differenza tra la MasterTech e la Mantova. Ma guarda, qua ti dà un 9.19, quasi 9.20 con la modulazione, perché è la modulazione che te l'ho portato molto su anche. E quindi va bene, si può tenere anche a potenza bassa. Va bene che va bene. Roger, dai, come dice Massimino Bulldozer. Avanti, Robert, riprendere. Io comunque rimango in stand-by perché ho delle cose da fare. Ok, grazie dei controlli. Poi, Robert, con calma, magari ci aggiungo altri due tubi da porto all'altezza della mantova. Lui voglio vedere la differenza netta che c'è tra una e l'altra, ma già come ricezione, anche come trasmissione, se la mangia nulla è cruda, comunque va bene, beh. E io qualche miglioramento già l'hai avuto, era già buono, cioè Gianfranco, tu sei salito un bel di segnale, ma tanto. Sì, tanto quanto, esagerato. 6.935 qua. Beh, vabbè, siamo in linea ottica. Da 9.25 sei salito a 9.35. Anche qua, Gianfranco, si è andato da 30 a 35, una cosa del genere. Ecco, ma me ne sono tornato normale, cioè normale con esattamente un watt e mezzo sul strumento, anzi se devo essere preciso, 1,8 watt. Mi stanno chiamando? Una differenza, non so a te Roberto, ho fatto 9.35 e 9.15. Adesso 2.925 è sceso e 10 punti ha guadagnato. Vabbè, io sono più distante, tu ce l'hai più a vista ottica magari, però cazzo avete dei segnali allucinanti. Non pensavo che ci fosse questa poca differenza, da davvero, poca differenza, non tra me e te perché eri 9.60 prima come io a te, però rispetto agli altri Gianfranco ha tenuto il suo segnale, 15-20 insomma, quello lì, anche tutti gli altri, vabbè, ben venga, vai. Vai, la fase tu, spalliero, o ti tronco la pedibella? Salve Nathalie, ciao, buongiorno. Che sono le 10 Nathalie? E di 9. 9 più 10, buono, buono, buono. Ciao, va bene, dai. Ciao Fla. Ciao a tutti quelli che sono qua. Ho acceso adesso l'interruttore, si è acceso anche il baracchino. Solo che non posso stare perché devo fare cosa qua. Vi ascolto comunque, dai. Salutoni a tutti. Ciao Natali, ben sentito, anche tu non scherzi come segnale. 9:10 in arrivo Natali. Arrivava 9. Ottimo, veramente. Ottimo segnale anche a Tatalino. Già va bene, già va bene. Ok, dai raga. Natali, poca gente c'è. Io a volte tengo acceso, non sento un cane, ma vabbè, io sto entrando pochissimo. Comunque. Se sento gente, una chiacchierata mai me la faccio, non se non viene nessuno, ragazzi, da questa URM. Ok, dai. Un abbraccio a tutti, piacere avervi ascoltato. Al limite, se coincide, ci sentiamo stasera. Ciao Natalino, Gianfranco e Roberto. Ciao, ciao. Ehi, ciao, Claudio, ci sentiamo. Vai, Gianfranco. Sì, ciao, Claudio. Alle prossime. Ciao anche Natalino. Anch'io mi devo allontanare, perché ogni tanto mi chiamano e devo rispondere. Ci sentiamo alle prossime, ciao Roberto, ciao Claudio, ciao Natalino, riprendi Natalino. Sì, ok, anch'io mi sto allontanando, dai, ciao a tutti, ci sentiamo alle prossime, dai. E anche io faccio una carrellata adesso qua nei canali, anche io voglio fare cosa tra poco, dai. Ciao a tutti, buon proseguo e buona giornata. Sì, ciao, ciao a tutti.